Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Venezia. Guida romantica a posti perduti. Tra road movie e commedia, il nuovo film con Jasmine Trinca, firmato da Giorgia Farina. Mi sono un po' rifatta a quelli che erano i film delle commedie, delle screwball comedies anni 50, degli anni d'oro di Hollywood. I posti perduti sono una mia piccola passione, io da sempre vado in giro a cercare posti, anche perché il mio posto perduto esiste veramente ed è la videoteca sotto casa di mia nonna, che ora non c'è più. E adesso è diventata una pizzeria, poi un'altra cosa, ma se io chiudo gli occhi ancora ricordo come era messo i film. E da qui l'idea di unire l'idea di questo viaggio con dei personaggi che non sono totalmente dritti, sono dei personaggi con delle grandi ombre, ma anche delle grandi tenerezze, perché espongono il fianco, ci fanno vedere la loro nudità piano piano che il film va avanti, e questo credo che li possa rendere molto umani. Tra l'altro io quando sento parlare Giorgia mi sembra di sentire il mio personaggio, cioè hai quella musicalità che a proposito della costruzione di Allegra, che è un personaggio come tutti i personaggi di questo film, che chiaramente derivano un po', no, dall'intimo della nostra regista. Però Allegra è una ragazza che appunto tiene questo blog assurdo sui posti perduti, su questi viaggi che lei poi sostanzialmente non fa, perché è una ragazza che ha degli attacchi di panico, non può uscire dalla propria stanza, quindi è tutto il cosiddetto viaggio mentale. E quindi insomma Giorgia ha insistito molto con me, io sono invece piuttosto una tranquillona. E questa cosa degli attacchi di panico non ho mai avuto un attacco di panico, adesso mentre lo dico poi vedi che e quindi Giorgia insomma mi ha fatto veramente entrare. Abbiamo avuto tempo, per fortuna, cosa che non si ha di solito. Abbiamo fatto un percorso insieme ancora prima poi di incontrare Clive, e poi con Clive devo dire che no, lui è stato veramente è stato inclusivo, è stato un grande professionista, come si suol dire, ma veramente con tutti noi, no? C'è stato un bel lavorare insieme proprio. Mi chiamo Benno. Allegra, parti dai. Non rispondi, allora ti scrivo. Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi. So che pensi che sto scappando, ma non è così. Dammi solo un po' di tempo. Perché dovrei fidarmi di te? Siamo in due, ok? E nessuno di noi due è normale. Vorrei chiedervi qualcosa di questi posti perduti. A pochissimi chilometri da Roma, e chi vede il film poi lo scoprirà, c'è una stupenda chiesa che ormai è sprofondata nell'acqua, un'acqua che si dice porti fortuna, tra l'altro. E io, insomma, mi avevano detto che c'era questa casa e sono andata lì e ho detto ma è incredibile, ed è un posto totalmente dimenticato da anni. Tarkovsky ci girò un film tantissimi anni fa, quindi io dissi ma è meraviglioso. E da qui appunto abbiamo iniziato a scoprire sempre di più, perché c'erano delle urgenze di sceneggiatura, posti, c'è questo meraviglioso Crespi d'Adda vicino Bergamo, una città operaia stupenda, e devo dire che entrare in questi posti, avere anche la possibilità di esplorare e di portare lo spettatore in dei posti che poi altrimenti non andrebbe mai, è per me una fonte di grandissima felicità. E devo dire che ha avuto un vero senso nel nostro racconto farlo questo viaggio, cioè penso che, no, anche nel compattare questa coppia così strana, inedita, il fatto di partire realmente in viaggio e abitare questi luoghi che erano sostanzialmente privi di vita, no? C'è stato di vero aiuto, insomma, è successo qualcosa. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Jasmine Trinca e Giorgia Farina. Ancora un saluto da Marta Cagnola.